Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata vi racconteremo i principali argomenti sui quali si sono concentrati i lavori delle commissioni assembleari in tema di inclusione sociale, lavoro e parità. A 2 anni e mezzo dal varo della legge regionale a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, la Commissione Politiche per la Salute ha promosso un'audizione con i rappresentanti delle associazioni. Occasione per fare il punto sulle esigenze evidenziate anche dalla pandemia e sui progetti realizzati. Sentiamo la Presidente della Commissione, Ottavia Soncini. Per noi è fondamentale continuare su questo perché bisogna che la regione sia sempre più una regione accessibile per tutti, una regione in cui la centralità è quella della persona in quanto tale con i suoi diritti e in cui vengono davvero abbattute tutte le barriere mentali e fisiche. Dalle associazioni è arrivata la richiesta di assicurare stabilità alle risorse da destinare ai progetti. In particolare Giuseppe Varricchio, presidente dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi Emilia-Romagna, ha richiamato l'importanza dei servizi di interpretariato e di segretariato sociale, il cui bisogno si è accentuato ancora di più in questi 2 anni di emergenza Covid. Per Lucia Mazzeo, presidente di FIADDA, bisogna fare informazione per superare gli stereotipi che ci sono ancora nei confronti della sordità e delle persone con disabilità uditiva. Tra i progetti in campo curati dalle associazioni, anche quelli che riguardano l'accesso alla cultura, nei teatri e nei musei, ad esempio con servizi di sottotitolazione. E ora passiamo al tema di cui si è discusso in Commissione Parità, dove si è tenuto un'audizione con alcune studiose del linguaggio. Un incontro, ci ha spiegato il presidente Federico Amico, per promuovere una riflessione sulle linee guida per la comunicazione pubblica in un'ottica di genere. Il documento è stato promosso dalla Regione nel 2015, nella convinzione che la comunicazione istituzionale di servizio abbia un ruolo strategico nel diffondere una cultura contraria alle discriminazioni e capace di dare valore alle differenze. Sentiamo la linguista Vera Gheno. Le parole non sono mai solo parole, ma sono espressione del nostro modo di percepire la realtà, percepire noi stessi e percepire gli altri. E in questo senso sono uno snodo fondamentale quando si parla di persone e di società. L'errore che comunemente si fa, a mio avviso, è quello di pensare che chi parla di parole parli solo di parole, e invece è importante considerare sempre le parole attaccate alle altre persone e alle cose. Per questo parlarne anche in un contesto istituzionale è ovviamente necessario, perché poi le istituzioni manifestano se stesse a loro volta tramite le parole. Chi studia i fenomeni linguistici non ha dubbi sulla forza delle parole e sul loro potere di cambiare i punti di vista e gli stereotipi. Un cambiamento lento e progressivo che però necessita ancora di molto lavoro, a partire dalla formazione. Condizione femminile e solitudine sono le principali criticità emerse nel corso della clausola valutativa, affrontate in Commissione Cultura sulla legge regionale disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità. Ascoltiamo Giulia Pigoni della lista Bonaccini. Credo sia fondamentale avere letto i dati che ci sono stati consegnati oggi di quante donne, soprattutto persone sole, persone tra i 35 e i 54 anni che effettivamente avranno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro e ad avere dei programmi dedicati, invece attraverso tirocini e formazioni per programmi di formazione permanente riescono effettivamente ad avere delle soluzioni per rimettersi in campo. Dall'analisi dei dati tra il 2018 e il 2021, le persone alle quali viene riconosciuto il profilo di fragilità in Emilia-Romagna sono 58.000. Circa il 57% sono donne, il 65% hanno la cittadinanza italiana, spesso vivono da sole e hanno un'età compresa tra i 35 e i 54 anni. Sentiamo Igor Taruffi di Emilia-Romagna Coraggiosa. I dati dimostrano, credo in modo chiaro, come questa legge che abbiamo approvato nel 2015 fosse una legge necessaria, perché appunto il tema dell'inclusione nel mondo del lavoro delle persone più fragili è un tema di primaria importanza, lo era allora, lo è a maggior ragione oggi. Per quanto riguarda gli esiti occupazionali, dei 17.180 utenti rientranti nel programma, il 42% ha avuto un contratto di assunzione. Per quanto riguarda i tirocini, sui 28.514 attivati, il 45,5% sono stati frequentati da femmine e il 54,4% da maschi. Ecco cosa ha dichiarato in proposito Valentina Stragliati della Lega. Siamo un po' preoccupati per quanto sta accadendo rispetto ai tirocini extracurricolari. Riteniamo che questi siano assolutamente fondamentali e che siano esperienze che debbano essere garantiti a tutti i giovani, non solo ai soggetti svantaggiati, ma anche ai ragazzi che non lavorano o che sono disoccupati da tempo. La pandemia ha pesato sulla situazione, portando a un sostanziale cambiamento nelle modalità di contatto e relazione tra utenza e servizi, e ha aumentato l'isolamento delle persone con maggiori fragilità. Il commento di Valentina Castaldini di Forza Italia. Abbiamo un grande compito, quello di affrontare un nuovo tipo di formazione, di affrontarlo bene, di offrire anche nuovi lavori e sapere che dopo una pandemia c'è sempre più bisogno di ascoltare bene quali sono le problematiche e valutarle ogni 6 mesi almeno. Di occupazione si è parlato anche in Commissione Politiche Economiche, dove è stata approvata all'unanimità dei presenti una risoluzione. Il documento chiede alla Giunta regionale di intervenire per impedire la chiusura dello stabilimento con sede a Marradi dell'azienda ortofrutticola del Mugello. Ci ha spiegato le motivazioni Manuela Rontini del Partito Democratico e presidente della stessa commissione. È partita una mobilitazione che ha visto impegnato il sindaco Tommaso Triberti, tutte le istituzioni locali e regionali, e ci ha visto impegnati anche noi come Regione Emilia-Romagna nel partecipare al tavolo di confronto con la proprietà, continuare a monitorare la situazione e soprattutto a mettere in campo tutte le azioni possibili di concerto con la Regione Toscana perché le lavoratrici e i lavoratori di quello stabilimento abbiano un futuro. Adesso sentiamo la Presidente della Commissione Statuto Silvia Piccinini, alla quale abbiamo chiesto un commento sulle novità introdotte nella Costituzione che ora prevede la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. La Camera ha infatti definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso gli articoli 9 e 41 della Carta. È un risultato importante che ci consente di avere uno strumento in più per la tutela anche dei nostri territori ed evitare di mettere in contrasto le attività private con la tutela della salute pubblica e appunto dell'ambiente, seguendo anche quel principio europeo del DNSH che prevede di non arrecare danno significativo all'ambiente, applicato per la prima volta ai fondi del PNRR, e quello che sto chiedendo è di applicarlo e farlo proprio anche per le leggi regionali, per gli atti di programmazione e per i bandi. Cambiamo argomento. In occasione dei 10 anni dalla morte di Guido Fanti, l'Assemblea ha ospitato un incontro che ha messo in evidenza l'attualità dell'azione politica e amministrativa di colui che è stato il primo presidente della Regione Emilia-Romagna. Sentiamo Emma Petitti, presidente dell'Assemblea Legislativa. È stato uno dei fautori della nostra regione, capace di essere regione d'Europa. Da qui la riflessione: in questi 2 anni l'Europa ha dato segnali molto importanti al nostro paese e ai nostri territori, con risposte concrete, capaci di puntare sugli investimenti che andremo a fare attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Crediamo che ci sia un legame molto forte tra politici, amministratori, riformisti, come è stato appunto Guido Fanti, capace non solo di amministrare il presente, ma di guardare al futuro. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sui siti assemblea.emr.it e cronacabianca.eu. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.